giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Proseguono a tutto campo le indagini sull'omicidio di Benita Gasparini, la donna di 89 anni trovata morta nella sua abitazione di Pantianicco. Si attendono importanti elementi dall'imminente autopsia. Ai nostri microfoni la testimonianza di uno dei figli della vittima. Poco fa la Corte dei Conti regionale ha emesso il giudizio di parificazione del rendiconto generale delle Friuli Venezia Giulia, evidenziato un esito positivo in termini di equilibri di bilancio e di risultato d'amministrazione. Rimarrà in vigore fino alle 6 di domani l'allerta gialla della Protezione Civile per possibili nuovi forti temporali dopo quelli dei giorni scorsi. Con il previsore dell'ARPA cercheremo di capire le ragioni di questa alternanza di caldi afosi e piogge violente. Tra le questioni legate al mondo del mare c'è spazio anche per l'allarme relativo al granchio blu che ha fatto la sua scomparsa in modo preoccupante sulle coste dell'Adriatico settentrionale. Ne abbiamo parlato con un esperto dell'OGS di Trieste. A un anno di distanza dagli incendi che avevano flagellato il territorio del Carso Isontino, la natura sta lentamente coprendo le ferite incise dalle fiamme. Ad attestarlo un documentario firmato dal direttore artistico del Teatro Stabile Rossetti che si può vedere online. A Pordenone è stato presentato il nuovo progetto di riqualificazione dell'ex battirame San Carlo, edificio da tempo in disuso e in rovina, che sorge nei pressi del lago di San Carlo. A Cividale torna Mittelfest, festival che per la sua 32esima edizione ha come tema inevitabile. Sono 3 gli eventi in programma nel giorno dell'apertura. Nick Mason, il leggendario batterista dei Pink Floyd e pietra miliare della storia della musica, ha aperto a Palma Nova la sezione musicale di Onde Mediterranee con un concerto che ha attirato pubblico proveniente da tutto il nord-est d'Italia e da oltre confine. Le 12:32 minuti in questo istante, questi titoli, ancora un buongiorno da Giorgio Bearz e Dario Ronzoni che condurranno questa seconda edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia di venerdì 21 luglio. In apertura la cronaca, continuano infatti a ritmo serrato le indagini da parte della Procura di Udine e dei Carabinieri per cercare di scoprire la verità dietro l'omicidio di Benita Gasparini, la signora di 89 anni trovata morta nella sua abitazione di Pantianicco. Non si esclude alcuna ipotesi, nel servizio di apertura sentiremo anche la testimonianza del figlio della vittima. Potrebbe essere oggi o al massimo domani il giorno dell'autopsia sul corpo di Benita Gasparini, la donna di 89 anni di Pantianicco trovata morta mercoledì mattina nella sua abitazione della frazione di Mereto di Tomba, all'intersezione fra via Percotto e via D'Annunzio. Dall'esame affidato al medico legale Carlo Moreschi, gli inquirenti si attendono, fra l'altro, elementi che consentano di definire nella maniera più precisa possibile l'ora della morte, che comunque non dovrebbe essere di molto antecedente il ritrovamento da parte di uno dei figli. Questa mattina, intanto, davanti all'abitazione di via Percotto, posta sotto sequestro, si è presentato Gabriele Cisilino, il figlio che viveva con Benita Gasparini e che il giorno del delitto si trovava ad Abano Terme. Nei giorni scorsi l'uomo, quello che meglio conosceva la casa e le abitudini della madre, è stato sentito a lungo dagli inquirenti, al pari degli altri 4 fratelli. L'uomo ha chiesto di poter avere accesso alle pertinenze dell'abitazione per potersi occupare delle coltivazioni e degli animali. Rispetto il lavoro degli inquirenti e spero possa portare presto dei risultati, ha spiegato Cisilino, che nel frattempo ha dovuto trovare un alloggio alternativo. Quanto al possibile movente dell'omicidio, l'uomo ha sottolineato che la madre era ben voluta e non aveva dissidi che possano giustificare il delitto. Inoltre, ha aggiunto, era una persona molto prudente e non apriva la porta a estranei, al punto che recentemente non aveva aperto neanche a una nipote, non avendola riconosciuta. Pantianicco di Mereto di Tomba, Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia. Una persona è rimasta ferita in seguito a uno scontro frontale tra due auto accaduto all'alba lungo la statale 13 Pontebana nel territorio di Campo Formido. Sul posto l'equipaggio di un'ambulanza e di un'automedica da Udine e i vigili del fuoco. Il ferito è stato trasferito all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. A Trieste, traffico rallentato nelle vie vicine alla stazione da via Carducci a via Milano e via Fabio Severo. La causa dei rallentamenti è un incidente stradale che è avvenuto poco fa in via Ghega tra un autobus e un'autovettura. A Trieste, nella sala udienze di via Miramare, si è tenuta poco fa l'udienza pubblica della Corte dei Conti regionale per un giudizio di parificazione del rendiconto generale del Friuli Venezia Giulia. Evidenziato un esito positivo in termini di equilibri di bilancio e di risultato d'amministrazione, cui ha contribuito una dinamica virtuosa delle entrate e della spesa, nonché un risultato positivo di gestione della cassa. Lavorare sul rapporto tra sanità pubblica e privata per migliorare l'efficienza e contribuire così a ridurre le liste di attesa. Nel lusinghiero giudizio della Corte dei Conti sulla Regione, per il secondo anno di fila si fa riferimento al convenzionato come criticità. Nel 2022 il valore complessivo delle prestazioni acquisite attraverso il privato accreditato è stato di 128 milioni, 5 in più dell'anno precedente. Di questi 19 erano destinate al progetto di recupero liste d'attesa e fuga extraregionale, ovvero chi va in altre regioni per cure e operazioni, perché in Friuli Venezia Giulia le liste sono troppo lunghe. Secondo il magistrato relatore Tamara Lollis, nel rapporto pubblico-privato accreditato sono stati rilevati aspetti da migliorare sotto il profilo amministrativo, della programmazione e della gestione delle risorse economiche, il cui impiego è stato inferiore agli stanziamenti. In sostanza serve programmazione e un miglior controllo delle risorse. Secondo la procuratrice regionale Spedicato, la soglia massima di spesa doveva essere di 109 milioni. La procura richiama l'attenzione sulla necessità di controllare la spesa sanitaria sia sotto il profilo quantitativo che quello qualitativo, soprattutto considerato appunto le liste d'attesa. Per il presidente Federica, soddisfatto del giudizio complessivo e della parificazione del rendiconto generale, l'intenzione è quella di aumentare il ricorso alla sanità convenzionata, come più volte detto anche in Consiglio regionale dall'assessore Riccardi. Trieste, Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia. Torniamo alla cronaca. Ruba il cellulare a una dipendente dei musei comunali di Trieste e viene individuato a qualche mese di distanza dalla polizia locale. È accaduto un uomo di 43 anni, colto dalle telecamere della videosorveglianza proprio mentre, di nascosto, si impossessava del cellulare senza farsi notare. La donna, una sorvegliante dei musei, lo aveva riposto nella borsa e lo aveva lasciato all'inizio del servizio pomeridiano in un'area appunto riservata al personale. Quando la sera non l'ha più ritrovato, ha denunciato il fatto alla polizia locale. Gli agenti hanno avviato subito le indagini, prima visionando i video registrati e poi incrociando i dati relativi alle matrici dei biglietti venduti, all'estratto dei pagamenti elettronici e all'elenco del traffico telefonico. Dopo aver identificato il responsabile, gli agenti hanno avviato la perquisizione del suo domicilio, trovando il cellulare rubato, ora restituito alla signora. L'uomo è stato denunciato per furto aggravato. E siamo ai dati del tempo. Il cielo è prevalentemente sereno, poco nuvoloso su pianura e costa, variabile sui monti. Ricordiamo che è ancora in atto un'allerta gialla della Protezione Civile regionale che scadrà alle 6 di domani mattina. Queste le temperature registrate poco fa. A Trieste ci sono 26 gradi, il mare è poco mosso con temperatura di 27 gradi e il vento soffia a 27 km orari da est-nord-est Bora. A Pordenone 28 gradi, a Udine Gorizia 26, a Tolmezzo 24 gradi, a Tarvisio 18, a Piancavallo 18 gradi, a Forni di Sopra 20, a Sappada 18, sul Monte Lussari 11 gradi, sul Monte Zoncolan 14, sulla costa a Lignano è grado 26 gradi, la temperatura del mare in entrambe le località è di 27 gradi. E ora le previsioni per oggi e per i prossimi giorni a cura di Francesco Sioni dell'OSMER, che ci spiega anche le ragioni di questa alternanza di caldi afosi e piogge violente. La situazione a livello europeo vede appunto l'anticiclone ancora presente più a sud, tuttavia l'avvicinamento di una saccatura da ovest, quindi dall'Atlantico, determinerà un parziale cedimento dell'anticiclone, che vorrà dire l'afflusso di correnti da ovest-sud-ovest in quota molto veloci e a tratti più fresche. Quest'area più fresca in quota favorirà quindi instabilità diffusa sulla regione. Oggi quindi ci aspetta una giornata all'insegna dell'instabilità, con alternanza di momenti con maggiori schiarite a momenti invece con rovesci e temporali sparsi. Alcuni di questi potranno essere anche forti, con possibili raffiche di vento forti o anche delle locali grandinate. Le temperature massime saranno in leggera diminuzione rispetto a ieri, attorno ai 28-31 gradi sulla pianura e 26-29 gradi sulla costa. Domani è un'altra giornata all'insegna dell'instabilità e della variabilità, con alternanza di momenti appunto più stabili a momenti invece con rovesci e temporali sparsi che si svilupperanno a più riprese e con possibili appunto raffiche di vento anche forti. Domani le temperature massime saranno in ulteriore calo, attorno ai 26-29 gradi sulla pianura, 24-27 gradi sulla costa. Questi temporali sono appunto dovuti al contrasto tra i giorni di questa settimana in cui abbiamo avuto ancora molto caldo e afflusso di umidità nella pianura padana. Domenica invece avremo una breve rimonta dell'anticiclone che determinerà una nuova fase più stabile, con prevalenza di cielo sereno su pianura e costa e invece poco nuvoloso sulla zona montana. Dobbiamo aspettarci ancora dei caldi afosi per la prossima settimana? Per ora, per la prossima settimana, non ci aspettiamo un aumento delle temperature come la scorsa settimana. Sono voracissimi e non hanno predatore se non l'uomo. Stiamo parlando dei granchi blu che stanno infestando le lagune dell'Alto Adriatico. Arrivata alcuni anni fa dall'Oceano Atlantico, questa specie si è diffusa piuttosto velocemente, divora pesci, soprattutto i mitili delle nostre lagune. Friuli Venezia Giulia, Veneto e Emilia Romagna chiedono lo stato di calamità per i pescatori che si vedono distruggere il mercato. Anche la ricerca chiede fondi per studiarlo e siamo stati proprio per questo a capire la situazione, l'evolversi soprattutto di questo fenomeno con gli esperti dell'Osservatorio Geofisico Sperimentale di Trieste. Veloci, aggressivi, tanti. Le immagini che girano tra i cellulari dei pescatori di una riva fangosa, ci dicono forse dell'Emilia Romagna, ma non è certo, impressionano per la quantità di granchi blu che corrono e si sparpagliano al passare del pescatore che li riprende. Si tratta di un crostaceo proveniente dai mari atlantici del Nord America, arrivato qui attraverso le acque di zavorra delle navi, diventato in breve tempo una specie infestante e aliena soprattutto nelle nostre lagune, tanto che le regioni Friuli Venezia Giulia, Veneto ed Emilia Romagna hanno chiesto al governo di poter decretare lo stato di calamità perché questo granchio divora molto del nostro tipico pescato, soprattutto vongole e cozze. Siamo con Diego Borme, biologo marino, ricercatore dell'OGS qui a Trieste. Perché sono così voraci questi animali? Sono voraci perché presentano un'indole spiccatamente predatoria, quindi sono dei forti predatori, sono molto rapidi, sono agili e sono anche parecchio impattanti in quanto si trovano in un ambiente che è nuovo per loro e l'ambiente stesso non li riconosce come possibili prede o come per esempio ospiti di parassiti. L'unico predatore è l'uomo, vediamo che in alcuni ristoranti già li cucinano, si commercializzano, è sufficiente per eliminarli? Penso di no, perché il prodotto è vero che è saporito ed apprezzato, ma è anche un prodotto difficile, di nicchia, diciamo, perché va maneggiato con cautela, in quanto può essere pericoloso, ed è anche difficile, diciamo, da preparare, in quanto è piuttosto elaborato estrarre la polpa dal carapace, quindi è per pochi intenditori o comunque per chef. Se viene consentito lo stato di calamità, arriverebbero ristori per i pescatori, ma anche fondi per la ricerca, un bene perché va studiato. Questi due aspetti vanno intesi collegati, perché per poter gestire o per poter comunque intraprendere delle azioni va compresa la situazione, quindi questo organismo andrebbe monitorato, andrebbe compreso di più, anche perché qui nelle nostre acque potrebbe sviluppare degli aspetti del ciclo vitale un po' diversi rispetto alle zone di origine. Trieste, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. Il gruppo Birra Castello ha annunciato oggi la firma dell'accordo per la vendita dello stabilimento di San Giorgio di Nogaro al gruppo Royal Unibrew, player internazionale nel mercato del beveraggio. Per Birra Castello, si legge in una nota della società, questa vendita si inserisce nell'ambito della strategia di potenziamento e sviluppo dello stabilimento di Belluno. Allo stesso tempo, l'operazione consentirà di consolidare la presenza dei marchi prodotti nella fabbrica sul mercato italiano. Royal Unibrew assumerà la proprietà degli asset entro la fine dell'anno, una volta completati i processi relativi alla transizione. A Pordenone è stato presentato poco fa il nuovo progetto di riqualificazione dell'ex Battirame San Carlo, edificio da tempo in disuso e in rovina che sorge nei pressi dell'omonimo lago. Un nuovo progetto di riqualificazione per la città di Pordenone. Il comune ha svelato stamattina quanto si sta preparando per l'ex Battirame, un edificio da tempo in disuso e in rovina, che sorge nei pressi del lago di San Carlo. L'amministrazione ha prima disboscato l'area, poi ha dato avvio a un progetto d'intesa con la soprintendenza che darà vita a una nuova struttura con la stessa volumetria ed efficiente dal punto di vista energetico. L'opera, dal costo di 2,5 milioni, sarà finanziata con fondi nazionali e del PNRR. Dentro ci sarà uno spazio diurno per anziani, un servizio per attività sportive all'aperto come cicloturismo e corsa e una foresteria destinata proprio a questa funzione. Il bando integrato si chiuderà il 31 luglio e comprende il progetto esecutivo. In conferenza stampa il sindaco Alessandro Ceriani ha detto che quello dell'ex Battirame è uno dei progetti di cui più va orgoglioso, insieme all'ex birreria, all'ex Kral di Torre. Ciriani si è poi sfogato rispetto alle resistenze che sta incontrando il progetto dell'ex fiera con i 50 tigli da tagliare. Se si parla da 10 giorni solo di questo in città, ha detto, significa che a Pordenone non ci sono problemi. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. I devastanti incendi che un anno fa stavano mettendo in ginocchio il Carso Isontino e la natura che sta lentamente coprendo le ferite incise nelle fiamme sono raccontati nel progetto artistico di Paolo Valerio dal titolo Natura, io ti ringrazio. Il video di circa 6 minuti, firmato dal direttore artistico del Teatro Stabile Rossetti, si può vedere sul sito e sui profili social del Teatro Stabile e del FAI Friuli Venezia Giulia. si è fatto ispirare da una frase dal mio Carso di Scipio Slato per Paolo Valerio per il titolo del suo progetto audiovisivo che a volo d'uccello sorvola le centinaia di ettari del Carso Isontino che mostrano la ripresa della vegetazione in primavera. Una primavera che nel 2023 non era come tutte le altre perché l'ambiente portava i segni della devastazione delle fiamme che avevano divorato alberi e arbusti pochi mesi prima. Abbiamo voluto, come Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, dedicare un momento di riflessione, pensando a una sorta di anche rinascita rispetto a questa terribile tragedia. Il titolo già racconta questo. Natura, io ti ringrazio. Il mio Carso è duro e buono. Abbiamo pensato lungamente a come poter raccontare questa tragedia e ci siamo affidati all'anima e alla danza. Ci abbiamo pensato che forse parlare attraverso la fragilità dei corpi umani, quindi attraverso i danzatori, di questa fragilità, di questa meraviglia lacerata del Carso era forse il modo migliore. Un video nato anche con il supporto del FAI, dell'FVG, che dopo la tragedia ambientale ha inserito il Carso tra i luoghi del cuore. Grazie alla sensibilità delle persone, il Carso è ora al 13° posto tra i luoghi del cuore in Italia e potrà beneficiare di un contributo FAI per un progetto di recupero ambientale. Michele Dacol per il FAI FVG. Un progetto molto prezioso perché è passato un anno e la natura ha mascherato alcuni dei danni che ha subito dai terribili incendi che il 15 luglio hanno iniziato a colpire il Carso a livello trasfrontaliero. Un video per aiutarci a ricordare, nel segno proprio dei luoghi del cuore, che la natura deve diventare ancora di più al centro delle nostre preoccupazioni. Trieste, Nada Choc, TGR, Friuli Venezia Giulia. La Giunta regionale ha approvato una delibera con la quale prevede anche per l'anno scolastico 2023-2024 l'abbonamento scolastico agevolato sperimentale per gli studenti residenti in Friuli Venezia Giulia che utilizzano bus e treni di competenza del trasporto pubblico locale regionale. Il titolo di viaggio, abbonamento scolastico residenti FVG, può essere utilizzato dagli iscritti alle scuole dell'obbligo e delle scuole superiori, università o istituti superiori equiparati fino a 26 anni di età e anagraficamente residenti nel territorio regionale. Per poter acquistare l'abbonamento agevolato sperimentale è necessario compilare l'apposito modulo di autocertificazione disponibile online. I termini di presentazione della richiesta saranno comunicati dalle società che gestiscono il trasporto pubblico locale attraverso i siti web aziendali. L'acquisto dell'abbonamento agevolato dovrà comunque essere effettuato entro il 31 ottobre 2023. Il nuovo servizio di autobus notturno a chiamata a Trieste sarà attivo da oggi e per tutti i venerdì e sabato estivi dalle 22 fino alle 4. Il servizio sarà fornito da 3 autobus che, in base alle prenotazioni della clientela, si muoveranno lungo percorsi non predefiniti fra Viale dei Campi Elisi, Piazza Garibaldi, Piazzale Gioberti, Via Valerio e Barcola. Ricordiamo che senza prenotazione non si potrà salire a bordo. Una notizia di calciomercato: la Triestina ha acquisito con la formula del prestito con obbligo di riscatto dal Venezia l'attaccante del Suriname Deyshawn Redan. 21 anni, punta centrale mobile ed duttile, Redan è cresciuto nei settori giovanili di Ajax e Chelsea, conquistando il titolo nazionale Under 17 con i Lancieri e Under 18 con i Blues. A livello di club ha militato in Bundesliga con la maglia dell'Hertha Berlino e nella massima serie olandese, 45 presenze, 7 reti e 3 assist, con Groningen, Pezze Zwolle, Utrecht, prima della prodo a Venezia a gennaio 2023. 16 le presenze e 9 reti nella UEFA Youth League e 49 gol in 65 apparizioni con la nazionale giovanile olandese, nella quale ha fatto la trafila dall'Under 15 all'Under 21. Sarà la schermitrice udinese Mara Navarria ad aprire simbolicamente la Coppa del Mondo di Italia Softball, effettuando il primo lancio celebrativo domani, prima della partita contro il Venezuela, a Castions di Strada. L'atleta azzurra, appartenente al gruppo sportivo Esercito, sarà nei prossimi giorni impegnata ai campionati mondiali di scherma in programma a Milano. Gli spettacoli a Cividale del Friuli torna il Festival Mittelfest, che con la sua 32esima edizione ha come tema Inevitabile. Inizio oggi con 3 eventi alle 18:30 nell'aula magna del liceo classico del convitto nazionale Paolo Diacono, la mostra dedicata a Giorgio Pressburger. Alle 19 al teatro Ristori sarà assegnato il premio Ristori all'acrobata e attrice Eva Luna Betelli. A chiudere la giornata il concerto Janoska Style Goes Symphonic con il gruppo Janoska Ensemble insieme alla FVG Orchestra dalle 21:30 in Piazza Duomo. Nick Mason, il leggendario batterista dei Pink Floyd, pietra miliare della storia della musica, ha aperto ieri sera in Piazza Piazza Grande a Palmanova, la sezione musicale di Onde Mediterranee, con un concerto che ha attirato pubblico proveniente da tutto il nord-est Italia e da oltre confine. Tutto pensavamo di vedere nella vita, ma non il batterista dei Pink Floyd e il chitarrista degli Spandau Ballet suonare assieme. Invece Nick Mason ha coinvolto proprio Gary Camp in un progetto che ripropone i pezzi dell'epoca, secondo alcuni più follemente creativa dei Pink Floyd. Quella che partiva dal genio pazzo di Syd Barrett, quella che arriva fino a The Dark Side of the Moon escluso, a cavallo tra gli anni 60 e 70. Titolo del concerto, Saucer Full of Secrets, come il secondo album di quel periodo, e punto di partenza, One of These Days, con Nick Mason a creare un muro sonoro suonando i suoi crash con delle mazze da timpano. Per Gary Camp, il ruolo di frontman e voce solista del progetto che allineava sul palco di Piazza Grande a Palmanova anche Guy Pratt, bassista con i Pink Floyd dal 1987, Lee Harris dei Blockheads e il compositore Don Bacon, The Piper at the Gates of Dawn, More e Amma Gamma, gli altri album rappresentati nella scaletta, per un concerto nel cartellone di Onde Mediterranee, che è la seconda tappa delle cinque programmate in Italia per questo tour, compresa quella al Teatro Grande di Pompei. Per le 3.000 persone arrivate nella città stellata, un viaggio in un passato affascinante che ancora non ha smesso di produrre frutti. Andrea Vardanega, TGR Friuli Venezia Giulia. Ancora concerti, dopo Nick Mason da Palmanova stasera tocca Jimmy Sax accompagnato sul palco dalla Symphonic Dance Orchestra, inizio alle 21.30 in Piazza Grande. Per la 27esima edizione del Friuli Venezia Giulia International Music Meeting Sacile Estate Musicale si tiene oggi il concerto inaugurale per corno e pianoforte con Hans van der Zanden e Anastasia Goldberg alle 20.30 alla chiesa di San Gregorio a Sacile. Si chiude a Trieste la prima edizione del Festival Tartini Piano Master, interamente dedicato al pianoforte, con due concerti, il primo alle 18 nell'Aula Magna del Conservatorio con il pianista Luca Chiandotto che suonerà musiche di Schumann e Ravel, alle 20 toccherà invece ad Alessandra Fornasa con un programma dedicato a Mozart, Beethoven e Liszt. Per la rassegna Musica in Villa in programma la serata Let's Dance Live Looping and DJ Set con il tastierista Christian Nocchi Rigano, la chitarra di Michele Poletto e gli effetti di Giordano Sala, che farà da festa di benvenuto per le rappresentative nazionali di software femminile che, come abbiamo detto poco fa, da domani saranno impegnate tra i campi di Castions di Strada e Buttrio per le partite del girone C di qualificazione ai mondiali. Appuntamento stasera all'Arena di Castions di Strada alle 21. Evento dedicato alla musica napoletana stasera a San Leonardo Valcellina. A esibirsi saranno Giulio Sensolo con il mandolino, Gianni Fassetta alla fisarmonica e Massimo Santaniello al clarinetto. Inizio alle 20.45 all'area ricreativa della Proloco di San Leonardo Valcellina. Ed è tutto per questa edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia, che è stata redatta e condotta da Dario Lanzoni e Giorgio Bearz, con la collaborazione di Mauro Ciccarelli e di Federico Comar. Ha collaborato in redazione Manuel Bussani. Prossimo appuntamento con il giornale radio alle ore 15, vi ricordiamo l'appuntamento con informazione televisiva regionale alle ore 14 e naturalmente il nostro sito per gli aggiornamenti di internet. Grazie a tutti e buon proseguimento di giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.